hanno dato una marea da vendere e le stavo analizzando se erano tutte per la 27. Come ti hanno dato una marea? Sì. Ma gente di Sassari o da fuori? No, di Sassari. Poi gli ho mandato da poco. Una marea mi hanno dato. Di quelle col mollone, di quelle col mollino, di quelle che le stavo analizzando, sono tutte per la 27. Qui vedo solo l'analizzatore, io vedo, non ho altre fotografie. Ah, guarda il video, è un video. Questa è una frusta nera. Guarda, adesso ti ho mandato una foto. Adesso sì, ci potete vedere i cavalli di tutti questi antenne. Chi è che aveva la collezione di antenne frusta nera? Guarda quanto te ne ho mandato adesso. Una marea andata. Le sto facendo fuori. No, le ho analizzate stamattina, ce n'è solo una che non è per la 27, è una VHS, è in più una Grand Play, però c'è sta radiale. No, vanno benissimo, guarda, questi modelli qua poi con queste cariche sono anche trovati, con la carica e in più la regolazione appunto per la taratura alla base, non quelle col mollone ce l'hanno in punta, il classico filo sali scendi, mentre le altre che vedi ce l'ha alla base, vedi? Avvicchi e svicchi, come quella del video. Sì. Tutte frusta nere sono, praticamente. Che cosa si è fatto? Perché la collezione delle frusta nere si aveva fatto. E sono nuove e mai usate. Non lo so, ma adesso controlla, le mettiamo in vendita, va bene. Ma vuol dire, qualche negozio che ha dismesso? Sì, sicuramente è un casino, puoi venderle, io le metto anche su Facebook, vediamo un po' se ne serve a qualcuno. Di base ne ho solo due, perché la base bisogna o magnetica o normale, bisogna che poi si prende l'antenna e si procuri la base. Però ormai tutti cercano queste antenne qua, corte ma performanti comunque. Sì, infatti, già lo so che vi cercano corte, perché se lo dicono la macchina del circo. Infatti. Però io sono sempre dell'idea che l'antenna lunga è quella che rende veramente. Ma oggi antenne lunghe non le vuole più nessuno. Vabbè, non le vuole più nessuno, vabbè, io non le voglio nulla, è per quello, perché se no me l'avrei messo nella macchina. Ma sono tantissimi anni che ormai non ne ho più nella macchina. Ma, via. Vabbè, ormai ma guarda chi non più guarda niente, se vuol dire che siamo in quattro e tutta la settimana. Che ci vuoi fare? Io ne ho una di antenna così, che mi manca la base, però non so di quale frequenza è, l'avevo trovata, qualche macchina che l'aveva persa, non lo so, l'avevo trovata per strada, ma ce l'ho anni, però non so a quale frequenza appartiene, perché non ho, prima di tutto non ho la base, e poi non avrei modo nemmeno di testarla, perché non ho l'analizzatore. Ma quando vuoi mandami una foto, vediamo un po', o portamela. Ehi, un giorno io te la porto, vediamo un po', non è che mi dà di stabilità, comunque, quella che avevo buona l'avevo regalata, l'avevo data a Stefano, io l'avevo data, avevo la PLC 800, nuova, di lusso, quella sì che era un'antenna per conto mio. Sì. Buona, la 1000, la 2000, ma antenne lunghe non ne vuole nessuno. Quei pochi che ci sono, non ne vuole nessuno. Infatti ormai no, magari non l'ha mai usata nemmeno lui, perché lui è radioamatore, per cui non so nemmeno se se l'ha piazzata nella macchina, o se l'ha regalata, o se se l'ha venduta, questo non lo so. Ormai sono passati almeno 3-4 anni, va, più o meno. Guarda se ti trovi la staffa dell'Alan 48, Giulio, buttata da qualche parte, se ce l'ha. La staffa per attaccare, la staffa io mi sembra 3 o 4, però non lo so, dell'Alan 48 se va bene, ne ho 3 o 4 di staffe, la misura mi dovresti dire dell'Alan 48, così io misuro la allora io misuro la staffa e poi ti saprò dire se va bene o no. Un secondo, sta ascoltando. Allora, 17 centimetri. Ti controllo quando salgo su, prendo la scatola dove ci sono quelle e vedo un po' se ce n'è, perché ne ho sicuramente una del 4500, 4500 della Intec, mi sembra che era, poi ho quella del Tokai 5024, poi cosa ho? Poi credo di avere anche quella del Intec 3360 S, non lo metto molto forse, insomma 3 o 4 ce li ho comunque. Ah, guarda se ce l'hai quella. Ti mando la foto di un attacco microfonico giù di un barattino. Guarda se ce l'hai questa foto qua. Ti ho mandato la foto. Se c'è il microfono. Se no gli attacchi di così volante. Ce la devo provare in trasmissione, perché siamo sembra funzionare. Nicola con la 5 punte, perché non si vede molto bene dalla fotografia. A 5 punte il microfono. Esatto. Sì, vedi, sicuramente ne ho microfoni che possono andare bene, suppongo. Comunque di sì. Ma i microfoni normali, vero? Sì, i microfoni normali. Mi guarda che te l'ho mandata col flash, te l'ho fatta la foto. Sì, il microfono a 5 punte, sì, come quello del Tokai, uguale, quello del Tokai è così. Sì, ce lo dovrei avere, ce lo dovrei avere. Un microfono così ce lo dovrei avere. E se no, se non ti basta cambiare lo spinotto, va bene lo stesso. Problemi non nascio. No, ma non era per quello, io lo devo provare. O regalarlo, non lo so. O non lo so cosa vogliono fare. Era la volevo provare in transizione. Quindi questo funziona, lo squelch però non funziona. Oh. Sì, ce l'ho qualche microfono che va bene. Già te lo faccio avere. Questo è l'Intec M340S. Sì, ce l'ho avuto io, 340. L'avevo dato, sai che l'avevo dato? L'avevo dato a Giuseppe. Giuseppe Leoncino l'avevo dato io, quel barattino lì. Questo è 40 canali, No, quello che avevo io era 34, però io l'avevo modificato ed era diventato 52, perché ne avevo fatto, non so, una quindicina più o meno, non so di preciso, perché andavano sotto. Questo 40, questo sì, poi ho avuto anche le 500, l'Intec 500S avevo avuto anche quello era 34 canali, però poi l'avevo modificato e diventavano anche quelli più di 50. Avevo spostato solo un filo, l'avevo spostato dal commutatore dei canali, l'avevo spostato da un punto all'altro, avevo letto uno su CQ elettronica mi sembra questa modifica e l'avevo fatto ed era andata bene. Ma un filo, staccato da un posto l'ho saldato nell'altro. Questo c'ha una schedina sopra, non so se è roba aggiuntiva. No, è originale, la scheda che è sopra il commutatore del canale. Sì, la scheda è giusta. La scheda è originale così. C'ha un quarto la schedina. Nel quarto adesso non me lo ricordo se c'era o meno, ma comunque nel commutatore dei canali c'era una schedina piccolina e avevo staccato un filo da un posto e l'avevo messo nell'altro ed erano diventati 52 canali, tutti erano diventati e andavano molto ma molto bene. Chi è che sta picchiando? Ma tu sì, sta picchiando così. Ciao Giulio, buonasera. No, sto provando. il segnale, o Giulio. Dopo te lo contraccambio al volo, dai, grazie. Dovrebbe essere intorno alle 9.15, 9.20. Sono a LED io, non sono analogico. È a LED questo segnale, a barretti. Ok, dai, grazie Giulio, dai, riprendo dopo, sto finendo una corretta qua. Grazie per il momento. Ok, niente, figurati. Ciao Fra, buonasera. E che? Ehi Bu. Ciao Luca. Ma com'è? E Luca, dammi un rapporto di segnale, fa la cortesia, visto che c'è anche tu. Sto prendendo alcune cose sul cavo qua. 9.30. La radio buona è Luca. Sì, sì, sì. Ok, dai, grazie. Prosegui, te riprendo dopo. Sì, Luca, ce l'ho. A 5 punte ce l'ho sicuramente il microfono, come stavo dicendo. Che se non sbaglio questo è il tipo di microfono, se non sbaglio, se non mi ricordo male, avevano quella gomma attorno, vero? No, quello è il 50-24, quello è il 50-24 del Tokai. Ah, ecco quale mi ricordavo. Ce l'ho sempre io, sono conservato che non so nemmeno dove l'ho messo, metto un po'. Quello era 23 canali, era quello. Però mi sembra che avevo fatto, anzi no, 22 più canale alfa, 11 alfa con il vale, boh, non me lo ricordo più, boh. Se hai dovuto la batte, ma sono anni che non l'ho più visto. Che boh. Non lo faccio. Però mi sembra che avevo fatto la modifica per avere il canale 23. Adesso non mi ricordo, però forse avevo fatto la modifica, senza forse. Per avere il canale 23, perché il canale 23 c'era nel 50-24, se ricordo bene, era 22 alfa c'era, e allora ho fatto la modifica e così avevo anche il canale 23. Sì, che baracchinetti gli altri. Non mi sono mai piaciuti, sinceramente. Eppure quando era un apparecchio che andava molto, va molto bene, allora quegli anni 70 lì era il numero uno forse di allora, negli anni 70. Sì, l'ho avuto, poi non mi ricordo se l'avevo dato a Coso, a Franco, Delta 1 a controllarlo, e poi boh, non so se era sparito perché avevano chiuso, mi sembra, il negozio dove lavorava, e che boh, che fine aveva fatto quello, ma non è che mi interessa. Ho capito. Poi ho un microfono, uno sciure, fa male. Mi ci manca lo spinotto, non l'ho mai provato, nuovo di zecca, ma veramente nuovo, che non so nemmeno se funziona, perché quello mi ricordo, proprio adesso che hai parlato di Franco Delta, e mi sembra che me l'avesse dato lui, ma sto parlando di almeno 15 anni fa, forse non anche di più. Non l'ho mai usato perché non c'era il filotto e non l'ho mai messo, non mi è mai interessato. Ma è pesantissimo, proprio pesante. Ehi. E un giorno gli avevo portato il computer da riparare, gli avevo portato il computer quello di allora, di una volta, quello di base, diciamo, dai. No, non di quelli portati, di quelli di base. Parlando, mettilo pure questo microfono, dammelo, l'ho preso, l'ho messo in tasca e da allora, ma sono qua a vedere 15 anni fa, parlo poco, se non anche di più. Ormai. E poi in casa prendevano tanti colpi quando tutti poi mettevano paracchini più potenti, lì, là, tutti che uglia. Ma io non ne ho mai avuto di queste idee così assurde, perché per me erano idee assurde. Tutto quanto pieno di alimentatori lineari, ma cosa te ne fai? Ma cosa. La mania macca che vira allora in giro. Io non ne ho mai avuto, no, non mi è mai interessato. Sono andato sempre con gli omologati e ciccia, e va bene così. Ho un commutatore antenna, ma era di quelli di una volta, quelli della ZG. L'avevo provato. chiamato una volta, non mi chiudeva bene e l'avevo eliminato. Il nuovo, ce lo dovrei avere sempre, ma non, se lo cerco già lo trovo. Ma non l'ho mai usato, no, non mi interessava più, non mi è mai interessato nemmeno quello. Commutatore in antenna coassiale. Sempre ce l'hai tu il rosmetro di quelli a lancette incrociate? Cosa giusto? Ce l'hai sempre il rosmetro quelli a lancette incrociate? Ah dai, ma no, ce l'ho più, l'ho venduto. Quello, come ce l'hai adesso? Nulla, non ne ho neanche uno di questo. Intanto me lo dà la radio. Vabbè, hai l'analizzatore, ma analizzatore solo uno ne hai. Sì, analizzatore sì, c'ho, vabbè, il rosmetro VEU, capito, quello digitale. Sì, vabbè, io ho sempre quello che mi avevi dato tu, quello KV, com'è, c'è qua c'è tu, quindi. Sì, funziona sempre bene qui. Sì, vabbè, comunque, no. Mannaggia, quattro, ne ho quattro, ma non me ne serve di più nemmeno uno, tanto ce l'ho nella radio. Il TOS, per cui va bene così. Qua c'è wattmetro, rosmetro, per tutto incorporato, no? Me ne aggiungo più davanti, ogni volta che dice invece 1.0, si può immaginare, perché è memorizzato così, no? Sì. Tanto stamattina mi stavo giocando e ho controllato anche la tensione, 15.7 mi dava. Questo è l'alimentatore che stavo usando, forse c'era un pochino di bassa tensione, allora mi dava un volto in meno, mi dava del, perché sennò è di solito era 13.8. E anche questo è il prezzo, insomma, la cosa che avevo da fare. Quante si sente anche? Poi questa due regolazioni, a parte che c'è anche il la manopolina per il noise, no, da eliminare. E poi c'è la devi controllare qualcosa, ti servono, non so, 2 volt o 4 volt, abbassi il tastino, perché c'è un tastino e una selezione con i volt fissi a 13.8. No? Eppure abbassi il tastino e si regola la tensione, magari si deve usare qualche cosa a bassa tensione, ti serve 4 volte, giri e appunto il pomello e abbassi la tensione a quella che ti serve. No, quello che sto usando adesso è fisso, quello che sto usando adesso io è da 7 ampere, continuo, 9 di spunto, 7 di fisso. L'altro già ce l'ho, quello switching, quello mi sembra che arriva forse a 5 volte, da 5 a 15 o 16, una cosa del genere. Ma comunque non sto usando più, anche perché c'è la ventolina lì, è un casino quando, vabbè, non è che mi interessa più di tanto, perché non è un problema, anche l'avevo abbassata anche la velocità della ventola, l'avevo messo una resistenza a 2 watt, l'avevo messa e ha migliorato moltissimo il rumore, però è sempre, si sente sempre, in poche parole. Ehi. No, con questo invece ma così sente, guarda, è veramente comodo, veramente veramente comodo, c'ha 2 bananine dietro e 2 davanti, ma così sente, guarda, una figata, ottimo, una figata, digitale. Volendo potrei, ne ho 2 di cose, di computer ne ho anche, di alimentatori, questi già sono più silenziosi. Solo che non li ho mai messi in opera, ma li ho controllati, funzionano tutte le tensioni, arrivano anche sino a 15 volt, se ricordo bene, comunque i 12 volt ci sono tranquilli, pacifici, non mi ricordo quanti ampere da, ma comunque all'intorno 7-8 ampere per il baracchino me li dà lo stesso, no? Potevo utilizzare uno di quelli, perché quello è veramente silenzioso, quello già non lo sento veramente, ma silenzioso al massimo, nonostante la ventola anche lì, c'è la ventola anche lì incorporata, però è silenziosissimo, come se non ci fosse la ventola. Già lo so, ne ho una giovinciarata in occhio, ma non vanno bene quelli per usare il radio con molta da 10 ampere, ma su 12 volte. Oppure si può dare 3 volt, o altri voltaggi 5 volt, capito? Eccetera, eccetera. Cioè, non ci sarà. Sì, sempre nel discorso della legge di Ohm, no? Più aumenta il voltaggio e più abbassa l'amperaggio, più basso è il voltaggio e più aumenta l'amperaggio, già lo so che è così. No, ma per il baracchino va bene, per il baracchino, soprattutto il baracchino che ho io, che funziona da 11,4 sino a 16, a 16 volt, va benissimo, per il baracchino che sto usando io va benissimo, non è un problema. Per quelli sì. Ti ho fatto vedere, io ne ho due di uno da 25, anche uno da 30 ampere e uno da 50 ampere. Quello dove gli ho messo il regolatore di velocità della scopa. E all'altro lo stesso che ho messo l'interruttore, anche gli spegni il vento, anche gli spegni l'alimentatore, perché non hanno niente, sono nudi e crudi questi switching che... Però, guarda, la verità quando benissimo, io li ho messi sotto sforzo anche con gli atterrati e vanno benissimo. Ti dirò di più, io ho anche una scatola di quelli comprati per autocostruzioni, però ce l'ho in falegnameria, ce l'ho. Grande, che addirittura ci sta dentro, ci sta uno di quegli alimentatori che ti sto dicendo, di switching, ci sta dentro, e poi tra l'altro posso fare tutti i lavori che voglio, mettendoci ad esempio un interruttore supplementare, altre boccole supplementari, per poter avere più tensioni, eccetera, perché tu lo sai, no? Tutti quei fili che ci sono, ogni filo ti dà una tensione, o meglio, ogni gruppo di filo ti dà una tensione, sicché all'occorrenza potrei anche mettere le boccole per ogni tipo di tensione, scrivendoci anche qual è l'alimentazione che dà. No, ma è utile lo stesso. Sì, per quei baracchini vanno benissimo quelli da computer, certo, lo dico a voi. Tu pensa che io questo baracchino io a zero completamente il QRM. Infatti adesso lo sto usando azzerato, ma non solamente con il tuo segnale, che il tuo segnale è forte, eccetera, ma anche con segnali bassi, lo stesso. Tanto per farti un esempio, il mio Giomaria che esce con l'antenino, anche lui sento, tranquillo, senza nessun QRM, da un passaggio all'altro io non sento nessun QRM, perché l'ho azzerato completamente tramite l'RPG, no? Ha questa qualità, questo baracchino. No, io guarda, chiudo lo squelch ed è come una telecomanda, tanto, capite? E sono tutti vicini, anche con lo squelch chiuso si sente tutto. Sì, appunto, siccome li sento tutti, vabbè, anche lo squelch, ce l'ho anche automatico io lo squelch. Ce l'ho addirittura anche da microfono, messo a poco, nonostante che il microfono è a 4 punte, mi sembra a 4 punte, il suo microfono originale, no? E oltre al cambio canale c'è anche lo squelch, per cui posso utilizzare anche da lì. Dall'altro non lo usi mai praticamente, lo solo per ricevere a testa. Una volta ogni tanto, una volta ogni volta di pappa. L'altro giorno l'ho acceso, quando è? 3 giorni fa, 4 giorni fa. Ma non mi interessa, se l'hai giusto imbarcato in un posto dove non dà fastidio. È una scelta drastica proprio, cioè da... A pensare che prima ho già visto a quello. Vabbè. No, io... Cioè, come sei passato dalla Ferrari a Z2Z? Cioè, non la farei mai una cosa del genere, giuro, assolutamente. Non mi piace. No, dalla Ferrari al Mosquito sono passato, alla bicicletta a motore. Andava bene, intanto, per quello che serve. Prima eravamo in tanti e andava anche bene, oggi siamo in 4, cosa le fai? Mi sentono ugualmente, per cui che problemi ci sono? Mi sentono trentino, mi sentono a Sorso, mi sentono a Mulos, mi sentono insomma tutto, anche con questi 2 watt, perciò cosa me ne frega, me la puttana sta, io non ho mai avuto presunzione di potenza di macchini che poi c'è in capo un bel di niente, non me ne frega niente, a me quando mi sentono mi va bene così. No, ma non è quello, è la qualità audio, la qualità di radio, che non è assolutamente paragonabile. Beh, quello lo so, certamente sì, ma siccome non devo vincere nessun premio, e Claudio Villa, ma aveva la bella voce costruita da un bel anni, ma non mi interessa, per cui sono nato e continuo a vivere, che problema faccio? Quando mi capiscono basta, comunque questa radio mi dicono che non è male, che è discreta, da. No, non è male, assolutamente. Ti ho detto che è brutta come radio, ma la qualità è fatto da 100 a 1, ecco cosa ti voglio dire. E io per andare da 100 a 1 mi tengo il 100 e lascio l'1. Scusa, non è questione, non c'è più nessuno, ma quando parlo con qualcuno voglio parlare che mi sentano meglio di uno, io la penso così, e non tenere da battigliato il 100, capito? Non so, ma questo a me non mi interessa, io ripeto, non devo fare bella figura in nessuna maniera, la voce mia quando arriva così, se ti piace così e mi rispondi a quello che ti dico, quello che conta non è quello, no? La qualità della voce, o voi, ma la sinna futti, figurati che sto pensando a quello, quando io entro parlo educatamente come ho sempre fatto tutta la vita e la gente mi risponde educatamente, io sono contento, per cui va bene così. Da voi non mi intendi re che con una radio bella sarà soddisfatto o meno soddisfatto, non me ne fotti nulla di nessuno, e do ragione a una persona che già da un bel po' di tempo ha detto non me ne fotti niente più di nessuno, e ha ragione. Scusa il telefono. Vai. Attenzione, dici, prego. Ciao Gianni, doppio Ruth. Luca. Aspettando, mi a casa. Due volte avevo alzato il prezzo, dovevo andare fuori Sassari, fare un piccolo lavoretto. Da. Meglio così, dai. Vabbè, risposta non te la dà. Per quanto riguarda il lavoro, no, già, no, ancora niente. Vediamo. Svidimus. Non è che mi fido assai della gente, poco mi fido. Io non mi fido di me, faccio della gente. Buia, ciò perdevo. E vabbè, speriamo bene, dai. E anche io sto cercando per Marco qualche lavoro in ufficio, qualche cosa del genere. E lui sa usare il computer e tutte queste cose qua. Poi c'ha il diploma e qualche cosa magari la trovo. Beh, più di me di sicuro. E poi c'ha, vabbè, mi mancavano 2 esami per l'università. E adesso non voglio trovare sul lavoretto. E poi anche il giovane Marco. Sicuro che già lo trova, già, tranquillo. Lo trova. Per forza lo deve trovare. Che è giovane. Da mattina io penso prendo una cosa da qua. Mi sono allontanato dalla radio. E niente. E io sicuro la parte per l'età, per me è un po' difficile. Molto difficile già, capito? E vabbè, pazienza. E vai mandrone, vai a lavorare, cazzo. E vai, sei tutto drogato. Guacomane. Buonasera, Tattali. E mangiati un brodino di mammo. E io me l'ho già mangiato a mezzogiorno il brodino di mammo. Adesso lo faccio mangiare a te stanotte, così impari. Ma al burro? Ciao già. Ma te l'immagini questo cuocuomane? Sempre con me ce l'ha. E allora, ciao Tattali. Luca che è bravo, dai. Cioè è bravo quando dormi, eh? Vai, troione. Ah, è troioso. Tieni in giro sino adesso. Sono salito adesso, non ho portato giù il cane perché stavo lamentando, ho voluto scendere. Io credevo che eri in giro in macchina e mi dava un passaggio già. In macchina, Luca. adesso mi sono sdraiato 5 minuti perché Tyson voleva scendere a tutti i costi, doveva fare bisogno. E anche lui ci fa un passaggio da Conforama che devo fare un ordine. Allora se ti aspettano un amico, come mi chiami? E poi devo andare da Maurizio a farmi la spesa. Speriamo che mi costo qua, sennò boh, domani mi devo arrangiare. Oia. Io sono tutta dolore di schiena, ragazzi, per carità, non li posso più dare loro. Sai che mi miro un antidolorifico perché questo freddo mi ha fatto venire dolore alla schiena. Adesso mi sono passato all'acqua e mi sono giunto lì. E si può uomare? Chi è, ragazzi? Come proprio come il lattarino. Ah, io un po' li divido i dolori, così almeno me li tolgo io. Sì, già, c'ho questa schiena, adesso mi sta male io, va. Diciamo che un materasso nuovo, mi sono comprato un po', già mi sta andando... Sto meglio, dai, sono sincero, questo è il lattice. Ma io ce l'ho toppiti con la terrazza. E per stare proprio nella posizione giusta questo qua, con l'ortopedico, qui c'ho il materiale, il consolo, la rete con le doghe, sempre ortopedica. No, c'è tutto ortopedico io, perché se no guai. Alla caduta che ho preso c'ho sempre quel dolore, anche se un po' mi è passato, ma ogni tanto quando c'è freddo mi viene. No, questo qua il mio è... Io mi sento la gente da un culo. In coso, in... va. In co, va, vabbè, non mi viene il nome. Comunque, vabbè, è di quelli buoni, dai. Ho pagato 250 euro. Ma per lettino? Scontato, con la testa, so costava 300. Sì, sì. Ho capito. Che figa. Quelli devono essere quelli ad acqua. Quelli ad acqua. Sì. Cioè? Hanno l'acqua dentro. Tutti i cubi che prendono l'acqua al mattino. Ho capito. Ma se si buca di fare la doccia di notte. Cos'è questa qua? La radio, eh. Boh, non sento niente. Ah sì, lo sento forte, per Santiago 6. Non lo so. Non parli, eh? Non parli? Natalino la fa uno, eh? Non parli? Sono andato a aprire la porta che mi hanno suonato, cazzettina. Io già parlo già, e tu a parli? Comuno. Ma te ho parlato la mamma? Sì, quello della bamba è venuto, a me me la portano fino a casa. Ma come te? No, sempre incazzato niente, due. Ma cosa tu che tenete di Natale la bamba? Si inietta o si sniffa? No, quella si sniffa. E tu sei rimasto ai denti che furano. Con la coca, come la coca, dai. La coca è, la bamba è della Giamana in bamba. Adriano stava andando qua, mi vicino al tabacchino, e se l'è avvicinato questo negro e l'ha detto, non è voi mamma? E lui cosa l'ha detto? Andà a fanculo, ha detto. Sì, lui doveva dirmi che c'è un amico che è cuocuomane, aspetta che te lo chiamo. Ma ti immagineggi, cazzo, invece è andato a domandare birra da vicino a Nietti. E che capite c'è anche i finanzieri? No, si vede, bisogna che sia uno riconoscibile. Chi si intende nero bianco, un cazzo della polizia lontano un miglio. Nonna Maria, uno di quei neri è si mette a spacciare lì in strada, boh, si avvicina di mamma. Io non mai ce l'hanno loro il mercato. Se sono invece di giocare più bene di saietti, vai al corso, non vedi altro che nei duni di quelli fuori dei vicoli. Eia, ma se li ho visti io, cazzo, spacciando alla luce del giorno, cazzo, passandogli la busta a quello là. Boh, chi è? Ho sentito la modulazione forte, ma non ho capito chi è. Sì, un amico è. Avanti, avanti. Sì, non è qua. Io ho cominciato a Ah, ho capito, dai. Lo puoi immaginare. Quel Luca è lo stesso, si avvicina e ti dice ce ne vuoi, bamba. Manca buffumenti di te. Se non magari il barri sarà un ma aspettate un attimo, sto contando la bamba. Quella si pesa, non si conta. No, le bustine lui sta contando, che hai perso Luca. A chi è sana? Quanti chili hai? Allora, con 5 avanti ti dicevo è un calingrosso la vende. Ma dove sei? Su 145 525. Io? No, sono qua. Io là non ci posso andare, no. In ascolto, sto dicendo. No, no, tutto spento c'è qua. Ciao ragazzi. No, per sapere se c'è la gente che già ascolta avanti. Ehi, vai a ascoltare, va. Ah, poi non ci capisco nulla, non si capisce né qua né là. E allora va come ti vuoi. Io ne ho aggiustata, che se no interferisce con qua. Ciao. E stavo entrando di nuovo in PNR, così mi stava dicendo Lissi. E tu che c'è anche un bedigetto. No, se metto a andare il ricevitore già li becco, ma no, non ne ho voglia, lascio, e poi è meglio farsi gli affari su. Uno. Se li ascolta, se non li ascolta è uguale. Vabbè, ma la vici di buca ascoltavo tutto, eh? Sì, adesso non qua. C'è anche una radiolina che piglia tutto praticamente. Tipo radio FM, però piglia le HF tutto. Anche le forze dell'ordine. No, quelli non li puoi ascoltare. Quelli sono in un'altra frequenza. 20 minuti. Quelli sono criticati, pure non ha qualche manco di calmare. Chiacchieroni che c'erano. Ehi, sono passati per colpa della protezione civile. Sono passati tutti in tetra. Addirittura è un tetra militare, quindi non dovevo entrare. A 256 bipi c'era la chiave. Poi gatto. Sono su un canale, ce ne stanno due, capito, perché ci sono gli slot, è una cosa diversa. Da mattina, non li puoi mai sentire. Si sente o radio, televisore, stamattina, si sente tutto. Il televisore ed è bassumi, però si intendono a te. Perché tu c'hai il microfono che prende tutto. E allora? Io adesso c'ho una capsula di un microfono per cantare, ed è di quelle col coso verde. Deve essere di quelle buone quella lì. Evidentemente sì. E fare quello che vuoi. Io c'ho il Turner qua pure, se lui gli attacco il Turner. Io Turner non ne voglio più. A me mi sei guastato. Con le lamelle si spostano, fanno, non ne voglio più, basta la mille luce, è troppo vecchio come microfono. Qua c'avevo il Super Sidekick, che bello, nuovo, l'avevo tutto riverniciato, fatto bene. L'ho venduto perché dava sempre problemi. Perché sono vecchi, sono con le lamelle invece che essere con l'interruttore normale, quindi danno problemi. Io ce l'ho lì e non lo sto usando mai. Ma quello grigio c'è? Quello che c'è scritto, Turner Plus 3, quello americano c'ho. Andiamo a chi ci segue. Non è quello nero. No, quello grigio io. Ricordo una caloxite, ha imparato a dire il mio grigio. Noi diciamo il mio grigio, il mio grigio, lui, mio grigio, mio grigio. Siamo rimasti secchi, la fatica della ventesima, poi sta 3 ore, mio grigio, sempre dicendo una volta dopo l'altra. Perché dopo imparano, crescono all'improvviso parlando, capito? Maria, senti, ma il fatto che Emanuele ti per quello c'è un altro giorno, ha detto Bobo, prima ha detto io vieni, come li faccio io, no, per entrare in gabbia li faccio questo fischio, e loro imitano tutto, e praticamente i miei imitano anche i versi che fanno quelli di Elena, capito? Imitano tutti i canti che fanno, tutto. Lui ripetono, capito? Tutto quello che sento. Ma ci sono delle cose che non entrano in zucca, tu le puoi dire quanto vuoi, se non le vogliono, non lo vogliono fare, non lo fanno. Ci sono delle cose che non fanno, che non lo vogliono fare, o che non la prendono, oppure non lo vogliono fare loro. Se decidono loro, manco di una bici, di quel tu lo dici. Infatti è proprio così, comandano loro i buchi. Se tu li costringi non lo fanno. Cazzo, e non stavo pulendo la patatese, cazzo, mi sono tagliato il dito. La mangia la pasta la carbonara. Ma tali fini mira. L'altro giorno stavo togliendo la roba dallo scolapiatti e c'avevo uno di quei coltellacci di cucina, quelli che tagliano bene, li uso per tagliare la carne io. E non si è fatto perché gli ho dato la mano, e mi ha fatto un taglio. Sì, sono affidati un vecchio, quella patanese che ho io, quella ligata la stavo pulendo con la carta, con lo scottex, beh, ormai mi ha tagliato lo dito. Bisogna stare attenti, io la pulisco al contrario, non la pulisco dalla parte dopo e taglia, ma la prendo al contrario, la pulisco anch'io così, non la lavo, la pulisco con la carta, perché tanto la uso per tagliare salsiccia, formaggio, perché quella lì anche se la salsiccia è fresca non te la fa a pizzi, te la taglia bene, capito? Infatti sono affilatissimi, ma la sorte questa poi è bella, cazzo, è proprio di lusso. E poi io c'ho l'affilatore per i coltelli, li affilo io, c'ho l'affilatore per affilare i coltelli. Io ce l'ho lo stesso, ma non funziona quello che c'ho io, non lo uso più trattare io. Il mio affila forbici e coltelli, c'ha due parti diverse, poi per tenere le smussature c'ha un'altra pietra, la passi con la pietra e te le smussature. E io una l'ho rovinata con la pietra, perché bisogna saperli fare, saperli affilare. Mio fratello, Mario, lo si sa affilare i coltelli, te li fa cazzo di buon rasoio. Però io non mi fido a chi dica, è un piccabile. Un gioiello questa qui. Luca, fa pezzo di Luca. E Natali, io ti ripeto, me ne affido io. E poi anche i coltelli di casa, di cucina, infatti quello là, quello che mi è caduto, era affilato. Perché io lo uso, mi compro la carne e poi gliela taglio a taglio, capito? Gliela faccio a pezzi. E, per dire, ricopro i granelli. Li apro, li tolgo la pelle, li faccio a fettine e li do. E tutto il resto è lo stesso, capito? Il rene, tutto qua. E anche io sceglio quei coltellacci grandi, li uso in cucina, no? Qua uso questo qua per tagliare roba piccola, là. Però Marasuti è proprio affilato, peggio di chi di cucina. Via, ma quello che è caduto a me, di quelli che ci sono per disossare, ce ne presenti, sono quelli un po' più piccoli, quelli di cucina, sono proprio quelli che sono macellati. Sì, quello della lama fina, ce l'ho anch'io quello lì. C'ho quelli con la lama larga e quelli con la lama stretta. Infatti, anche io. Le uso diversi di coltelli, capito, in cucina, poi quando non tagliano più li passo. Io l'avevo preso a San Gavino, ne avevo preso due, una dei quali l'ho regalata a Marco Luvuri. Bella vista, sì, che bella, io non ho mai avuto una tutta pila di lavoro, ne avevo due e ne ho regalato. Io ce l'ho così, come quello che è, però non affila un cacchio. allora la devi passare 10 volte per affilare bene, non una volta solo, 10 volte. E fai 10 passate, parti da sotto, si da sopra, per 10 volte. E poi ripassi l'altra pietra con la, non so se è come la mia, perché la mia è tipo, cosa mi posso dire, ma lungoso, ma gran falla, e poi dall'altra parte c'è le rotelle. No, io ho solo quello per affilare, pietra non ne ho. Ce l'avevo gatta, ma non so che fine ha fatto. E poi non la voglio usare la pietra, ma cosa? La giografiata, una batterista e la giurigarata. No, ma questa qua c'ha l'incastro giusto, capito? Fa solo quel pezzettino e basta, no? È proprio le smussature che si usano. Dopo che tu la fili, se rimangono smussature, passi questa cosa, è come se te la lifichi. E io ho capito, E c'è meia taglia, taglia un bambino, buco. Pure la mia, cazzo, ci sono quei denti, le robune di uno scotto che si è tagliato i denti, non mi vedo più. Allora io l'ho visto al porto d'ottore, c'era questo qua che presentava diversi articoli, tra questi c'aveva la fila col denti, e praticamente ha preso un coltello, gli ha dato dei colpi di modo che rovinasse la rama, poi l'ha passata in questa pietra qua e tagliava la carta come taglia carta, e così zoom e tagliava. E l'ho visto e non mi ricordo se costava 10 euro la cosa del genere, ne avevo preso due e ne vanno bene e io li uso. Sai, queste cose qui quando vai alle feste le copri, poi non le idrati, nel momento ti abbagliano, diciamo che come lo specchio per le allodole, poi li metti da parte e non li usi più. Invece questo qui lo uso molto. Vabbè, adesso provo a vedere se, perché c'ho uno di quei coltelli che non taglia nulla, manco lei. No, io questo che c'ho va bene, vabbè, poi la pietra si consuma naturalmente, poi te lo comprare nuovo, perché poi a furia di affilare te la consuma. No, oh, questo c'ha due incavi, uno per le forbici e uno per il coltello, però non affila un incavo. E anche il mio c'ha forbici e coltello e poi c'ha l'altra parte, la rotellina che tu deve smussare. Oh, non lo so, rotellina non ha giù il frigo. Ma tu quante volte ne lo passi per affilare? Boh, adesso provo a passargli 10 volte, come hai detto tu, se riprende il filo. E lo devi incalcare, quando tu lo affili devi premere di modo che faccia forza. Sì, ho capito, adesso provo. Cioè, il mio affila, poi non lo so quello che c'è tu come. Ma io provo a vedere se affila, perché ne ho uno che non tanti, due innanzi, non taglia pure il suo goccio, il bavino di Rudrazzavo, tagliava un bel quello lì, avevano tagliato nulla. Guarda, per i coltelli cinesi sono micidiali, tutti i coltelli e le forbici che ho preso dai cinesi tagliano che cosa male, e sono di quelle autofilettanti, di quelle che si affilano da sole, non devi affilare niente, i coltelli, quelli cinesi tagliano bene. Ehi, ne ho due io che tagliano di brutto. Sono micidiali, i cinesi quei coltelli sono micidiali. Ma che vuoi che te dica? Adesso provo se riesco a filarlo quello là con la mazzetta. Quello lì mi si è rovinato.